Riflessi d'oltretevere. Una buona domenica da Katia Caramelli. Di fronte al peccato, alla tentazione, alla perversità del male, il cristiano non deve avere mai paura, agli strumenti per combattere. E quanto sostiene nel libro Intervista Più forti del male, edito da San Paolo, padre Gabriele Amort, 85 anni, esorcista, presidente onorario dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, da anni combatte contro il demonio. Il demonio esiste, altro che... Padre, chi si rivolge a lei? Tante, perché molte volte non è che abbiano mali di carattere malefico, ossia tante persone che hanno dei disturbi o strani o comunque che non guariscono con le medicine normali o che hanno fatto purtroppo degli errori, per esempio frequentato sette sataniche, frequentato sedute spiritiche, maghi cartomanti, 8 milioni di italiani vanno da maghi cartomanti e allora vengono. Allora se c'è solo bisogno di raccomandare a loro la preghiera, i sacramenti eccetera, raccomando a loro questi e sono dialoghi direi di conversione, di riallacciare i loro rapporti col Signore. Alle volte invece se mi accorgo che ci sono cose strane che mi insospettiscono, faccio un primo esorcismo a carattere diagnostico per vedere se c'è una presenza o un male malefico e se questo c'è allora si incomincia una serie di esorcismi. E come fa lei, padre, appunto, a vedere se c'è questo male? Lo vedo dalle reazioni che la persona fa durante l'esorcismo. Importante anche vedere che cosa succede alla persona dopo l'esorcismo e poi guardo se occorre una catena di esorcismi, guardo come si comporta la persona durante gli esorcismi, perché se c'è una presenza o un male malefico occorrono tanti esorcismi, alle volte per anni, prima di arrivare alla liberazione. A volte lei consiglia anche ai familiari che magari sente al telefono di fare la prova dell'acqua benedetta? Sì, perché alle volte ci sono certe piccole prove che danno già dei segni significativi. Per esempio ci sono delle persone che hanno dei mali malefici che non resistono a sentirsi spruzzate dall'acqua benedetta, come se fosse fuoco, poi non è detto. Alle volte c'è una versione ai simboli sacri, un figliolo che strappa tutte le immagini religiose appese alle pareti di casa, che se viene un sacerdote a benedire la casa si chiude in camera e non ne vuole sapere di aprire la porta. Ripugnanze verso la religione che non sono normali, anche uno che non crede, che è ateo, non ha queste forme di ripugnanze rispetto alle idee degli altri. Ma come fa il diavolo ad insinuarsi? Quali sono i principali canali? Il demonio ha due attività, una normale, contro tutti, dalla vita alla morte, l'attività di tentare l'uomo al peccato. Naturalmente fa tutto nascostamente, studia e impara a conoscere i nostri punti deboli, crea le occasioni perché noi i nostri punti deboli, che soprattutto riguardano le tre grandi passioni, ambizione, il successo, il denaro, l'arricchimento, i piaceri e qui tutti i vizi che ci sono, studi i nostri punti deboli e crea le occasioni perché noi possiamo soddisfarli senza accorgerci minimamente che cediamo alle tentazioni del demonio, magari non crediamo neppure alla sua esistenza. Ecco, questa è la tentazione. Poi c'è un'azione straordinaria del demonio, che è rara, che è quella di dare mali malefici o anche la possessione diabolica. E ci sono purtroppo le vittime dei malefici? È il 90% dei casi. Perché? Per concorrenza, per perfidia, per malizia, per invidia e per vendetta. Come si difende lei dal diavolo, visto che c'ha a che fare così spesso? Oh, sono difeso, guarda, sono certissimo, tante volte il demonio mi ha detto a te non possiamo fare niente perché sei troppo protetto. Sono avvolto nel manto della Madonna. Poi c'è San Gabriele, Arcangelo, mi chiamo Gabriele, sono in buone mani. E lei dice che è importante poi per tutti, invece anche la preghiera è fondamentale e anche l'intercessione della Madonna. Certo, la preghiera è fondamentale, e noti, ci si può anche liberare da mali malefici con solo preghiera e digiuno, come dice il Vangelo, fede, preghiera e digiuno. Mai ci si può liberare dal demonio con i soli esorcismi, tanta preghiera anche da parte di colui che viene esorcizzato, dei suoi familiari, che cerchi altri che preghino per lui, gruppi di preghiera, istituti di suore, eccetera. Ora c'è Don Willy Volonté, noi ci risentiamo domenica prossima. Più sacro che profano. Si è celebrato da poco il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, in sordina con qualche contrasto qua e là. Almeno in questo Camillo Benso di Cavour, uno degli artefici dell'Unità italiana, aveva ragione quando disse «Abbiamo fatto l'Italia, ora ci tocca fare gli italiani». Un attento studioso e osservatore della nostra italica storia è certamente il vescovo di San Marino a Montefeltro, Luigi Negri, e prenderò spunto da un suo scritto apparso recentemente sul Resto del Carlino di Bologna. Afferma Monsignor Negri, si ritiene che il risorgimento e l'unità d'Italia sia il bene assoluto. Non è vero. E chi ritiene il risorgimento e l'unità d'Italia il male assoluto sbaglia altrettanto. La storia non torna indietro nonostante le sue luci e oscurità, proprio perché è un fatto storico. Essere italiani non è affatto una disgrazia, ma neppure un orgoglio automatico. Essere italiani è un impegno e una responsabilità. Non i cattolici, che sono sempre stati giudicati come i nostalgici del bel tempo passato ante Unità d'Italia, ma la seconda generazione dei liberali storici ammetteva che era proprio nata un'Italietta. L'Italia sarà un'esperienza viva e creatrice solo se metterà a tema le culture presenti nel suo territorio senza contraddizioni e senza supremazie assolute. Ed è quantomeno ingenuo non ammettere che non possiamo non dirci cristiani, come affermava il laico Benedetto Croce. I laicisti si mettono il cuore in pace su questo argomento.